Io pensavo di articolare il mio intervento di oggi in tre parti. Una prima breve su, diciamo, un necessario chiarimento sull'attuale normativa relativa alla consultabilità degli archivi per la ricerca storica in connessione con il diritto di accesso. Il più breve possibile questa parte. Poi una seconda parte su lo stato attuale delle fonti consultabili e quindi la fruibilità da parte degli studiosi di archivi contenenti documenti che possono riguardare il tema di questo laboratorio, cioè la strategia della tensione, gli eventi delle stragi, il fenomeno del terrorismo. Anche se non sono la stessa cosa, no? Ovviamente questi temi, però diciamo stragi, soprattutto il fenomeno delle stragi si lega a quello che è stato chiamato dagli storici, da buona parte degli storici, il periodo della strategia della tensione. E poi una terza parte, anche questa breve, su alcuni interrogativi su come si collega la normativa sul segreto di Stato alla consultabilità degli archivi per motivi di studio, cioè per la ricerca storica.